dal profondo, dai miei sbagli soliti, dal silenzio che ho dentro e dal mio orgoglio inutile, da questa voglia che ho di vivere. Volevo dirti che ti amo, volevo dirti che sei mio, che non ti cambio con nessuno, perché a giurarlo sono io. Volevo dirti che ti amo, perché sei troppo uguale a me, quando per niente litighiamo e poi ti chiudi dentro. Bisogno di